L'idea che avevamo quando abbiamo organizzato questo incontro era anche quello che chi lavora la terra venisse qui e raccontasse il proprio vissuto, il proprio quotidiano, e che secondo noi era importante anche per poi riflettere magari sul da farsi o da fare e mettere a frutto le relazioni che magari questa sera nasceranno, sono nate e speriamo così. Quindi vabbè, Nicolò ci ha raccontato la sua esperienza, Gabriele ha voluto portare un'esperienza, un contributo visivo, diciamo così, e quindi invitiamo tutti a vedere il video che ci ha portato. E poi niente, ci sarà Dario, che anche lui un altro agricoltore del territorio, e poi speriamo di continuare il dibattito e di entrare magari più nel dettaglio delle specificità territoriali e magari progettuali. La butto lì molto così, insomma. Ringraziamo Nicolò che se ne deve scappare dai bimbi. Sì, sono Gabriele, sono qui. Ciao a tutti, grazie di essere venuti. Vi spiego velocemente perché ho scelto qualcosa così un po' diverso, anche l'ho scelto fondamentalmente per spezzare un po' il ritmo delle parole, e quindi io non dirò niente, c'è scritto tutto su queste slide. Cosa c'è scritto su queste slide? Su queste slide c'è una bellissima poesia di un agricoltore del Kentucky, che è stata scritta nel 1973, ed è una di quelle cose che ti segnano da quando le leggi la prima volta. Io l'ho letta la prima volta che avevo 17 anni e in qualche modo ha segnato la vita mia e forse anche quella dell'attività che sto facendo, e continua a segnarla e continua ad avere un peso enorme, per cui è da leggerla insieme in silenzio. Poi se qualcuno la vorrà, io ho fatto delle fotocopie perché secondo me ne vale la pena assolutamente di conservarla, di leggerla anche dopo, perché è veramente una bellissima poesia.